GR Europa. E buon pomeriggio anche da Anna Migliorati. Ancora in salita l'accordo sul bilancio europeo con il Parlamento di Strasburgo, sempre più spaccato, quando sembrava che i negoziatori del Consiglio e del Parlamento fossero vicini ad un accordo nella trattativa ormai in stallo da mesi. Restano le divisioni nell'emiciclo di Strasburgo. Il capogruppo dei socialisti democratici al Parlamento europeo, Hannes Svoboda, si è espresso contro l'accordo raggiunto, annunciando che il suo gruppo si riserva un'approfondita valutazione. Il capogruppo dei liberali democratici Verhofstadt si è associato in un messaggio su Twitter. Un braccio di ferro con tempi ormai strettissimi. L'ok al bilancio europeo è auspicato nella prossima plenaria di Strasburgo dall'1 al 4 luglio. Parlamento europeo che ha già bocciato le norme che avrebbe voluto la presidenza irlandese per la lotta al fumo, e anche su questo ora si cerca un compromesso. Tabaccai europei, unitevi, tutti insieme contro la nuova proposta di direttiva sul tabacco, che vorrebbe imprimere un giro di vite alle politiche antifumo. I punti più discussi, e che però nei fatti hanno poca possibilità di passare, sono il divieto delle sigarette sottili e l'aumento delle dimensioni delle etichette adesive, con gli avvertimenti sui rischi per la salute. Nei giorni scorsi le commissioni chiave del Parlamento europeo hanno espresso all'unanimità un netto rifiuto a queste istanze più proibizionistiche. Dunque oggi a Lussemburgo la presidenza irlandese di turno del Consiglio europeo avrà il suo bel da fare nel mettere insieme una maggioranza qualificata. La presidenza, consapevole delle difficoltà e dei pareri contrari, ha però messo sul tavolo del Consiglio dei Ministri della Salute dei 27 un testo di compromesso, con alcune modifiche alla proposta di direttiva, che vanno soprattutto nel senso di ammorbidire alcune delle nuove norme più severe. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è arrivato invece il primo ok dell'Europarlamento al bando dei gas fluorurati entro il 2020. Sono i gas usati per frigoriferi e condizionatori, a dare il via libera alla Commissione Ambiente. Dal 1990 ad oggi le emissioni di gas fluorurati, che hanno un impatto sul riscaldamento globale fino a 23.000 volte maggiore rispetto alla CO2, sono aumentate del 60%. La rivolta dei giovani turchi per più democrazia e libertà sta innescando una crisi tra Ankara e l'Unione Europea. Lunedì i 27 potrebbero, per protesta contro la violenza della repressione, non riavviare le trattative di adesione con Ankara, congelate ormai da 3 anni. In teoria per ragioni tecniche, ma i malumori sono molti. Erdogan aveva detto di non riconoscere l'Europarlamento dopo una risoluzione di condanna dei deputati europei. E occhi puntati anche su un altro paese, l'Albania. Una delegazione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sarà da domani in Albania, da monitorare il voto per il rinnovo domenica del Parlamento. Ci torneremo, intanto buon fine settimana, l'appuntamento con GR Europa a lunedì. GR Europa è sostenuto dal Parlamento europeo. Info su radio24.it.